via. Ma guarda le mie mani, non lasciano cadere una stilla di sangue. Per questa spia, nemmeno una persona è andata a morte. Lo giuro, te lo giuro, sulla Madonna che nascondi là. Quanto mi circondi.